Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Mattino. Sono un cittadino campano e lavoro nel Lazio, però i miei figli che vanno a scuola in Campania rientreranno il 24, lo ha deciso De Luca. I figli dei colleghi laziali vanno a scuola, indovina un po', il 24, quindi tutti quanti ne hanno approfittati, non penso che molti apriranno il 14. Pensia, mia moglie è maestra elementare e sa solo che non faranno tempo pieno. Non sanno gli orari, non sanno che aule hanno e che sessioni hanno. Addirittura qualche maestra non sa se ne ha una o due, quindi non sanno ancora niente e devono iniziare i 14. Se continuate a chiedere quando ci sarà il vaccino, battuta di arresto, state solo instillando false speranze e creando il terreno per frustrazione. Questo secondo me non è il compito di una buona informazione. Accolgo la critica da una parte, dall'altra parte dico, faccio le domande, le faccio agli esperti, come è stato nella fattispecie quella del il professor Crisanti, il quale ci ha detto non si sa. Perché in genere il vaccino più rapido che è stato sviluppato ci ha messo 3 anni e mezzo. Ora può darsi che i tempi si abbrevino, visto lo sforzo corale globale che viene messo su questo vaccino contro il Covid-19, però i tempi più brevi sono stati 3 anni e mezzo. Quindi, contesto questo, fare domande non è cattiva informazione. Se avessi detto il vaccino arriva sicuramente in novembre, sì, quello sarebbe stata cattiva informazione. Poi, per carità, anche questa affermazione può essere sottoposta a contestazione. Se volete, siamo qua, non c'è problema. Sulla scuola la confusione è ancora grande. Cari miei, tanto che nel Lazio hanno detto ai sindaci, riferisce oggi il Messaggero, che possono decidere un po' loro le date di apertura. E come vi dicevo, ci arriveremo tra un attimo, il Corriere della Sera parla dei presidi che stanno facendo pressione perché si apra un po' più tardi. È la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:19 minuti e 30 secondi, è mercoledì 9 settembre e anche oggi le aperture dei giornali sono varie. Il gruppo più nutrito è quello forse che si dedica alla scuola e sono alla fine 3 giornali però, Il Corriere della Sera che titola sulle spinte per il rinvio che arrivano appunto dal mondo della scuola, l'Avvenire che ci parla del sostegno precario, l'allarme delle famiglie per 80.000 ragazzi disabili che avranno solo insegnanti supplenti, l'addio dunque alla continuità didattica. C'è il Foglio anche che apre con un pezzo, ci arriveremo tra un attimo, un pezzo di Maurizio Crippa. Il mistero delle 60.000 cattedre, la poca voglia di rischiare nell'anno del Covid e il vero problema folle del sistema scuola, che ve lo preannuncio, ve lo anticipo, ma gli insegnanti questo già lo sanno, la quasi impossibilità di arrivare ad un accordo tra domanda e offerta, cioè tra la domanda che c'è sul territorio e l'offerta di lavoro di persone adatte a ricoprire quei ruoli. Un po' più politici gli altri titoli, anche il Corriere della Sera, tanto per darvi un'idea, ha comunque come titolo in alto, anche se il titolo forte sulla scuola, il titolo in alto è dedicato a Conte che non chiude sul fondo salva stati e arriva uno stop da Di Maio. Anche la Repubblica si dedica a questo, Conte apre al MES, è il titolo di apertura. La Stampa porta un'intervista a Dario Franceschini, uomo forte del Partito Democratico, che si rivolge alla destra e dice: ora un patto sulle riforme. Altre scelte sono per esempio quella del Quotidiano Nazionale, che ci parla del tema che abbiamo affrontato poco fa, la quarantena sprint, ossia l'ipotesi che si passi da 14 a 7 giorni. È l'Italia che ci sta pensando. Il Messaggero si dedica all'autonomia, ma l'autonomia non di Veneto, Emilia Romagna, Liguria, ma di quella della capitale. Autonomia, attacco alla capitale. Nella bozza di legge torna l'ipotesi di trasferire al nord alcune funzioni dei ministeri. Arriva una promessa di Giuseppe Conte, piano su Roma con i fondi europei. Ci parla di un Silvio che risorge, Il Giornale. Ci parla Il Fatto Quotidiano della vicenda di Attilio Fontana, o meglio del cognato di Attilio Fontana. Quindi si ritorna sull'inchiesta che aveva riguardato i camici da fornire alla regione Lombardia, e lo si fa parlando della Dama, l'azienda di proprietà appunto del cognato di Fontana e della quale la moglie del presidente della regione Lombardia è azionista. Il cognato di Fontana mirava a 2,7 milioni per forniture anche al Pio Albergo Trivulzio e alla stessa regione. Un altro presidente di regione nel mirino della giustizia, o in questo caso dell'antiriciclaggio, ce ne dà conto La Verità in prima pagina. De Luca segnalato all'antiriciclaggio nel mirino operazioni immobiliari per 860.000 euro ritenute sospette. Il Libero, anche qua un titolo politico, il PD si aggrappa alle sardine, l'ultima spiaggia per la sinistra, e si parla della Toscana. Il Manifesto si occupa di Giuseppe Conte, il battesimo del popolo Dem, ma a centro pagina la grande foto tipica del titolo di apertura del Manifesto è dedicata ai rapporti tra Confindustria e sindacati. Fuori orario, mentre in Europa si discute di riduzione dell'orario di lavoro, il presidente di Confindustria Bonomi liquida l'argomento. Non è questa la strada, scrive il Manifesto, e si dedica proprio a questo. Il titolo è Fuori orario. Il Sole 24 Ore si occupa di smart working, le 10 risposte chiave dal livello della retribuzione alle regole sugli straordinari, la bussola per superare i dubbi. Cosa succederà il 16 ottobre se non sarà confermato lo stato di emergenza? Questi i titoli principali dei giornali. Arriveremo tra un attimo alla scuola, andremo su due o tre grandi direttrici. La prima appunto è proprio quella della scuola, che è il tema di ovviamente di queste ore, di questi giorni. L'altro grande tema, l'altra grande direttrice è il fondo salva stati e sono le questioni politiche. E poi c'è questa vicenda di cronaca che colpisce, che sconvolge tutti, alla quale si dedicano oggi molti editorialisti. Ed è la vicenda dell'assassino di Willy Monteiro Duarte da parte, secondo quel che risulta ai magistrati, secondo quel che ritengono i magistrati, da parte dei due fratelli Bianchi e di altre due persone. E vi si dedicano i due autori delle rubriche quotidiane sulla Stampa e sul Corriere della Sera, ossia Mattia Feltri da una parte e con il suo Buongiorno sulla Stampa, e Massimo Gramellini col suo Caffè sul Corriere della Sera dall'altra. Il primo, Mattia Feltri, si dedica, e questo penso che vi farà discutere, si dedica al tema del garantismo in realtà. Ieri un tipo che non conosco mi ha scritto che sono malato. Non avevo ancora concepito una riga su Colleferro e sulla morte orribile di Willy, ma lui sapeva come la penso, come continuo a pensarla in forma, secondo lui, patologica. E ammetto, ci ha preso. Penso che un assassino è tale solo dopo sentenza, altrimenti i processi non servono. Andiamo a prenderli quegli assassini e finiamoli in piazza. Penso che la regola valga tanto più uno appare colpevole, perché se si cede all'eccezione, cede la giustizia. Penso che trovare la conferma a certezze già vaporosamente ferre nelle foto, nelle pettinature, nei bicipiti, nei tatuaggi, nell'attività sportiva, sia l'allegro e spaventoso sprofondare nel conforto efferato del pregiudizio. Penso che nessuno debba essere definito mostro, mai. L'uomo è tale per le vette e gli abissi. Penso che inchiodare, come ho letto, le famiglie degli indagati a una frase che non si sa da dove venga, hanno solo ucciso un extracomunitario, è un atto di banale violenza che fa venire le vertigini. Penso che questa ormai classica, digitale, collettiva e spietata caccia alle bestie, come sono stati definiti i quattro indagati, è un linciaggio con tutti i comfort tecnologici e brutalità sterilizzata, non richiede nemmeno un tumulto del cuore. Penso che invocare le punizioni più esemplari corrisponde a infiammare la giustizia di emotività, e quando la giustizia è emotiva è ingiusta, è vendetta. Penso che davanti al peggiore dei mali che si deve avere una particolare cura del bene. Sono malato, gravemente malato, e attorno a me ci sono sempre più sani, ma stranamente la bava alla bocca ce l'hanno loro. Così Mattia Feltri. E Massimo Gramellini su cosa si ferma invece? Si sofferma sul tema della chiusura delle palestre che praticano queste arti marziali estreme come quella dei Fratelli Bianchi. L'idea di chiudere tutte le palestre di arti marziali perché alcuni frequentatori delle medesime si sono poco marzialmente accaniti in 4 contro 1, molto più coraggioso di loro, è un'esagerazione figlia dell'indignazione. Non frequento i santuari dei muscoli per mancanza della materia prima, scrive Gramellini, perciò non sono accusabile di conflitto di interessi. So che se avessi avuto una figlia avrei sperato con tutto il cuore che si innamorasse di una di quelle arti fino a padroneggiarla. Mi sarei sentito più tranquillo nel vederla uscire la sera. E poi la mette sul tema della cultura, che insomma dice queste armi, queste arti marziali, questi muscoli sono uno scudo, non una mazza. Quando invece, come parrebbe nel caso di Colleferro, i muscoli si accompagnano alla cronica assenza dei pensieri, l'arte marziale diventa puro pretesto per un'opera di macelleria. Nessuna tecnica di difesa può difenderti dal vuoto che hai dentro. Anziché chiudere palestre, bisognerebbe aprire più scuole, per quanto questi sembrino giorni meno adatti per dirlo. Mettiamola così. A un guerriero che si rispetti per ogni 100 kg di pesi, non farebbe male sollevare anche un libro. Così Gramellini. E visto che abbiamo parlato di giustizia con Mattia Feltri, di come prendiamo la giustizia, sarei anche curioso di sentire la vostra opinione, se volete, a 349-238-6666, via WhatsApp audio, SMS, WhatsApp, se volete anche sulla nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo in diretta, su quello che succede alla Spezia. E siamo a pagina 15 del Quotidiano Nazionale. Perché? Perché scatta un'inchiesta, e un'inchiesta bella tosta, su quelli che si sono dedicati alla movida, che sono andati in giro durante l'estate a bere, a far casino nelle discoteche e via dicendo. Ora è caccia agli untori, titola il Quotidiano Nazionale. Attentato alla salute pubblica. Siamo a pagina 15 con Corrado Ricci e Matteo Marcello, che ci dicono che il segnale della Procura della Repubblica della Spezia è di quelli forti, capace di richiamare alla disciplina più di 1000 appelli alla responsabilità e magari indurre a mea culpa per le pregresse disattenzioni. Ha le forme di un fascicolo aperto contro ignoti con un titolo di reato da brividi: epidemia colposa, reato compreso nel novero dei delitti alla salute pubblica, suscettibile di condanne fino a 5 anni. L'iscrizione, secondo la burocrazia della giustizia penale, a modello 44, quello delle inchieste esplorative, cioè con riferimento alla consumazione del reato nell'agosto del 2020. In sostanza una caccia agli untori, ma ancor prima una mossa per scuotere una comunità che, al pari delle altre, durante l'estate ha allentato le buone obbligatorie pratiche dell'uso delle mascherine oltre le ore 18 e del distanziamento sociale di un metro. Vabbè, chissà se spetta ai giudici la mossa per scuotere le comunità. Una pausa, ci risentiamo tra un attimo. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Il problema della disponibilità dei professori, soprattutto al nord, non si risolverà mai fino a che la scuola pagherà degli stipendi ridicoli. Si continua a parlare del MES e Conte continua a svicolare dicendo che decide il Parlamento. Bene, che si vada in Parlamento. Purtroppo in Parlamento la maggioranza ce l'hanno i no, per cui il MES non si prende su decisione parlamentare. Basta, la storia è finita. Lo sa, caro ascoltatore, che io non sono per nulla convinto di questa cosa. Anzi, sono in realtà non persuaso, però metto un chip sull'ipotesi che dopo le elezioni regionali e dopo il referendum ci saranno delle aperture inaspettate sul fondo salva stati. Non so se ufficiali del Movimento 5 Stelle o con qualcuno che si sgancia o con i 5 Stelle che lasciano libertà di coscienza, però alla fine, secondo me, il fondo salva stati lo prenderemo. E sul tema degli stipendi degli insegnanti è un temone, enorme, ci arriviamo... Anzi, facciamo così, ci arriviamo proprio adesso perché è il tema degli insegnanti, il tema generale della scuola, e toccheremo anche il tema degli stipendi degli insegnanti perché non è solamente questo. La questione di giornata della quale troviamo traccia di fatto nell'apertura del Corriere della Sera, è il titolo principale, ma anche nelle pagine interne del giornale, è questa: che la pressione perché la scuola non riapra il 14 si fa più consistente da molte parti, non solamente dalle parti politiche, ma anche da chi nella scuola si trova. Ed è su questo ci porta, come vi dicevo, il Corriere della Sera, con Valentina Santarpia che firma questo pezzo che si intitola così. Siamo alle pagine 2 e 3. Scuole sicure, ritardi, accuse, rinviamo il ritorno in aula. Qual è il punto? Che in una giornata nella quale la ministra dell'istruzione Azzolina in Senato annuncia che durante l'anno saranno fatti test a campione anche agli studenti, che il rischio zero non esiste, che la pressione per l'apertura del 14 resta, a 5 giorni dalla ripresa delle lezioni in 13 regioni si aprono nuovi fronti per conciliare il rientro a scuola e l'emergenza sanitaria. Il primo è quello dei contagi che erano stati messi in conto ma che gettano nel panico gli operatori e complicano la già complessa riorganizzazione dei tempi e degli spazi. A Mondovì, nel Cuneese, l'asilo nido comunale riaprirà il 14 settembre anziché oggi come previsto, perché un addetto è risultato positivo al coronavirus. È scattata la quarantena in un asilo nido di Pergine Val Sugana, dopo che un bimbo è risultato positivo. Positivo un'educatrice del nido comunale di Montebelluna. L'ASL sta facendo fare il tampone a tutte le persone con le quali è venuta in contatto. E questo è, dunque, scrive Valentina Santarpia, tremano i polsi ai presidi, soprattutto quelli che sono ancora alle prese con la messa a punto delle misure di sicurezza, e fioccano le richieste di rinvio della riapertura. Molti sindaci stanno decidendo autonomamente di posticipare il primo giorno in classe, soprattutto nel Lazio e in Liguria, di almeno una settimana. Non è entusiasta, per esempio, Giovanni Toti, il presidente della Liguria. Trovo le ordinanze giustificate solo nel caso nel quale ci siano problemi di adeguamento degli istituti scolastici. Tutte le altre motivazioni le ritengo illegittime e poco giustificabili, facendo profilare a questo punto anche uno scontro tra le regioni e i comuni. Qua abbiamo anche l'intervista, come vi dicevo già prima, alle 6.30 a una... quella che tra l'altro è una voce nota qua a Radio 24, è Mario Rusconi, il presidente dell'Associazione Presidi del Lazio, che parla di una situazione incandescente e dice che sono centinaia le scuole che hanno chiesto di far slittare il rientro. La richiesta si sta allargando a macchia di leopardo, mi arrivano messaggi da tutta Italia. Tecnicamente si può fare? Sì, invocando l'autonomia scolastica, ma sempre in sinergia con le amministrazioni. Appunto, nel Lazio è stato per esempio deciso che saranno i comuni a dover dare il via libera dopo la decisione collegiale della scuola, e quindi sarà il collegio e i docenti presumibilmente a decidere di fare eventualmente la richiesta. Detto ciò, Eugenio Bruno sul Sole 24 Ore a pagina 6 ci porta su quello che è un caso tutto italiano, ossia ci fa sapere che ieri è stato diffuso il rapporto Education at a Glance dell'OCSE, che è un rapporto che viene diffuso ogni anno e che racconta lo stato dell'istruzione nei vari paesi aderenti all'organizzazione. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, lo sapete, con sede a Parigi. Ebbene, il rapporto Education at a Glance 2020, che è un rapporto... quest'anno ha un allegato, per così dire, ed è un allegato che parla di Covid-19 e delle scuole. Si apprende che l'Italia ha il record di lockdown. con 18 settimane solamente la Cina fa peggio, ma siamo sotto la media del numero di studenti per classe. Ossia, ci sono due elementi qua in questo pezzo di Eugenio Bruno che vengono sottolineati. Innanzitutto che la questione delle classi pollaio in realtà non esiste. La ministra Lucia Azzolina ieri al Senato ha indicato nella lotta alle classi pollaio uno dei grandi impegni da proseguire nei prossimi mesi, eppure, numeri alla mano, la dimensione media di una classe da noi è 19 allievi nella scuola primaria pubblica contro i 21 degli altri paesi OCSE. Stesso discorso alle medie, da noi accolgono 21 studenti per classe rispetto ai 23 della media, a dimostrazione del fatto che se molte scuole tricolori stanno faticando a riportare gli alunni in classe per mancanza di spazi adeguati, è soprattutto per la vetustà del nostro patrimonio edilizio. E poi questo dato che si diceva: dopo la Cina siamo quelli che hanno tenuto le scuole chiuse più a lungo. È qua in questo pezzo che troviamo, così rispondo anche all'ascoltatore di prima, che troviamo il ragionamento sugli stipendi degli insegnanti. Complice una carriera inesistente, i nostri insegnanti continuano a guadagnare meno degli altri, sia all'inizio che alla fine dell'avventura in classe. Una discrepanza che non si giustifica solo con il fatto che insegnano meno ore, 626 ore annue contro una media di 680. E come se non bastasse, sono troppo anziani. Gli under 30 in cattedra sono solo l'1% del corpo docente contro il 12% della media OCSE. L'1% è gli under 30 contro un 30% della media OCSE. Da segnalare sul fronte scuola ancora un altro paio di elementi. Avvenire a pagina 8 ci porta sul tema degli insegnanti di sostegno. Da lunedì almeno 80.000 bambini cambieranno docente, il 50% in più rispetto allo scorso anno. Potete immaginare, per gli studenti con disabilità, in particolare quelli con disabilità psichica, questo che cosa possa rappresentare, cioè cambiare ogni anno il docente, avere il supplente, non sapere per le famiglie come si inizia l'anno. E i dati sono impressionanti, si rischiano appunto tra i 70.000 e gli 80.000 insegnanti di sostegno precari, un vero mostro per la continuità didattica, denuncia Ernesto Ciriaci, presidente di MISOS, l'associazione degli insegnanti di sostegno specializzati, e lo troviamo su Avvenire a pagina 8, il pezzo lo firma Paolo Ferrario. Cosa ancora dalla giornata di oggi? Vi direi, prima di andare al MES, al Fondo Salva Stati, andiamo su due presidenti di regione nel mirino o nell'occhio del ciclone, quantomeno. Li troviamo sulla Verità e sul Fatto Quotidiano. Il primo è Vincenzo De Luca. Abbiamo raccontato un po' nelle scorse ore la vicenda degli autisti, qua ce n'è un'altra che tira fuori la verità. De Luca segnalato all'antiriciclaggio, nel mirino operazioni immobiliari per 860.000 euro ritenute sospette. Chi lo conosce come uomo parsimonioso si stupirà a leggere, raccontano Fabio Amendolare e Simone Di Meo, che Vincenzo De Luca avrebbe pagato la sua nuova casa 70.000 euro in più del prezzo fissato sul contratto. Chi lo conosce come governatore della Campania ha pensato bene invece di comunicare questa anomalia all'antiriciclaggio della Banca d'Italia. Segnalazione di operazione sospetta che porta la data del 15 maggio 2019 e che la Verità ha potuto visionare. Il pezzo poi è a pagina 9. E l'altro presidente di regione nel mirino, vedremo cosa risponderà De Luca nella giornata di oggi, l'altro presidente di regione nel mirino è Attilio Fontana, che si guadagna l'apertura del Fatto Quotidiano perché è ancora una volta l'inchiesta sui camici forniti alla regione Lombardia, quei camici che più volte abbiamo raccontato, Fontana aveva sostenuto che dovevano essere una donazione. Invece c'era una fattura, camici donati dall'azienda di proprietà del cognato e della quale è azionista anche la moglie. Si apprende, lo apprendiamo con Davide Milosa, pagina 5 del Fatto Quotidiano, la vicenda la trovate anche sulla Repubblica, insomma non è il solo quotidiano che la riporta, la dama risulta, che è il nome dell'azienda, risulta in procura a causa del Covid, vedeva all'orizzonte l'annullamento pressoché completo del fatturato 2020 e si puntava a guadagnare 2,7 milioni di euro, un tesoretto che equivale a circa 450.000 camici che Dama avrebbe voluto fornire ad Aria e al Pio Albergo Trivulzio, appunto. Quindi si parla a questo punto di 2,7 milioni di euro, a questi appalti puntava. I riflettori sono accesi, detto ciò, su questi 2,7 milioni non è che ci sia puntato un riflettore giudiziario particolare, questo lo chiariamo perché è bene chiarirlo, però appunto puntava a quanto pare a 2,7 milioni di euro. C'è l'ipotesi, racconta Milosa, di un conflitto di interessi, in particolare sul Pio Albergo Trivulzio, perché le nomine dei vertici sono condivise tra comune e regione. Traffico. Mattino. Ed eccoci di nuovo. Venire dunque alla parte un po' più politica di questa giornata, che si compone di una serie di elementi. L'elemento principale è questa apertura che è arrivata ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite alla Festa dell'Unità, intervistato da Maria Latella, sul MES. Valuto con Gualtieri, ha detto in sostanza il Presidente del Consiglio, facendo un esempio, abbiamo fatto sentire l'audio poco fa, facendo l'esempio di di lui come amministratore delegato e Roberto Gualtieri, ministro dell'economia, come presidente di un'azienda, o viceversa, per meglio dire. Fateci controllare i flussi di cassa, se abbiamo progetti da realizzare e serviranno risorse lo valuteremo insieme in Parlamento, che è quello che dicevamo prima con l'ascoltatore in una serata, racconta Manuela Perrone sul Sole 24 Ore a pagina 9 a Modena, accolto da applausi calorosi quelli del Partito Democratico. Ha voluto ribadire che tutto avverrà in tandem con il titolare dei conti pubblici. In questo momento non ci sentiamo di dire sì o no, esamineremo insieme i regolamenti del MES in modo trasparente e valuteremo in Parlamento. Lina Palmerini si occupa di altro e pone invece, visto che siamo su questa pagina di Politica del Sole 24 Ore ed è pagina 9, si dedica a Matteo Salvini e alla sfida di Salvini alle regionali tra Zaia e Meloni. Lina Palmerini, che cita l'intervista che abbiamo realizzato ieri qua a Radio 24 con Matteo Salvini, nella quale ha detto che le prossime regionali sono un test locale, evitando di rispondere se avranno o no contraccolpi sul governo. Da giorni ormai, a parte l'inciampo nell'aver promesso di fare cappotto a PD e 5 Stelle, il leader della Lega sta facendo l'opposto di quello che aveva fatto in Emilia-Romagna quando la mira era rovesciare Conte, ma è pura tattica da campagna elettorale, perché nonostante neghi la valenza politica dell'appuntamento regionale, è chiaro che in questa tornata il capitano deve ricavarne qualcosa per sé e per riscattare la leadership, perché le cose non sono andate un granché bene e i problemi aperti sono anche altri. In questa tornata in Veneto Zaia fa un campionato a sé, ben distante dal capitano, e nelle altre regioni contendibili, Marche e Puglia, a gareggiare ci sono aspiranti governatori della Meloni, non della Lega. Insomma, queste une rappresentano pure una spina nel fianco del capo del Carroccio, che per la prima volta si trova a una conta con i suoi competitori interni. Il punto di Lina Palmerini è interessante. Vedremo come andranno a finire le cose. A proposito del MES, vi voglio segnalare anche il commento che trovate sulla Stampa, pagina 21, di Veronica De Romanis, che è molto netto, l'economista Veronica De Romanis, la quale dice: la sanità rischia, ora ci vuole il salvastati. Con la riapertura delle scuole ci sarà bisogno di tamponi, reagenti, termoscanner. Le risorse messe a disposizione dall'Europa per acquistare questi dispositivi e per la necessità della nostra medicina di base ammontano per l'Italia a 37 miliardi di euro. Sono disponibili subito, previa attivazione del MES. Il Premier Conte temporeggia, la principale forza di maggioranza, il Movimento 5 Stelle, si oppone, non si fida. Eppure nel luglio scorso i ministri appartenenti al Movimento hanno approvato il programma nazionale di riforme, che sulle condizioni del MES è chiarissimo. La condizionalità si limita alla documentazione delle spese sanitarie dirette e indirette che dovranno essere dettagliate in uno specifico piano per ciascun paese richiedente. E quindi il MES, scrive Veronica De Romanis, a questo punto va richiesto. Sempre sul fronte economico c'è da segnalare sicuramente l'intervista realizzata a Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, con il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, il quale apre in una maniera un po' laterale, se volete, al fatto che possano essere tagliate le tasse grazie ai soldi europei. Non direttamente, però, non direttamente. Innanzitutto chiarisce un po' quali sono i piani, quali sono gli elementi di ritardo anche sulla presentazione dei piani per ottenere i fondi europei. Dice: questa non è una gara di velocità, perché se si legge il programma francese c'è scritto che il recovery plan, quello portato un po' ad esempio, no, lo presenteranno a gennaio. Detto questo, sì, certo, anche noi vogliamo partire prima dei tempi previsti per avere già in autunno, tra pochi giorni, le linee generali del piano che approveremo. A ottobre avremo un piano con un'impostazione, per così dire, alla francese, che sottoporremo informalmente alla Commissione europea. Enuclea quelli che sono poi alcuni dei punti fondamentali: possiamo portare la banda larga in tutte le case, in tutte le imprese, rendere le scuole più moderne e più belle, energicamente efficienti, possiamo aiutare le imprese ad innovare, possiamo portare il livello dei bambini che vanno agli asili nido al livello dei paesi del nord Europa e finalmente superare limiti e arretratezze. Ma sul fronte che, per così dire, vi immagino sul quale abbiate le orecchie ben spalancate, ossia il taglio delle tasse, dice: guardi, è quello che vogliamo fare. I soldi sono soldi temporanei, quelli di Next Generation EU e del Recovery Fund, e questa è la ragione per la quale un taglio strutturale delle tasse non si può finanziare con dei soldi che durano solo alcuni anni. Ma queste risorse possono finanziare delle grandi e ambiziose riforme e possono finanziare investimenti che hanno un impatto sulla crescita. L'impatto sulla crescita crea uno spazio di bilancio. L'obiettivo che ci prefiggiamo in questo pacchetto di riforme che accompagneranno gli investimenti è quello di far entrare a regime delle riforme che possono aiutare a finanziare un taglio delle tasse, e quindi indirettamente i soldi europei potrebbero servire esattamente a questo. Sempre sul fronte politico, voglio chiudere segnalandovi questa intervista a Dario Franceschini. Siamo a pagina 3 della Stampa con Francesca Schianchi, il quale, oddio, quante volte l'abbiamo sentita in Italia questa storia, eh? Patto con l'opposizione per le riforme, propone Dario Franceschini. Magari questa volta riesce, non lo so sinceramente, mi permetto di esercitare un certo grado di scetticismo. Un patto con l'opposizione con le riforme. Se il referendum vincerà il sì, come penso, sarebbe intelligente per maggioranza e opposizione prendere quel voto come una spinta a fare le riforme costituzionali necessarie. A 11 giorni dalle urne sul referendum regionale, il capo delegazione PD e ministro della cultura Dario Franceschini, che è uno degli uomini forti del PD, propone questo patto con le opposizioni. E tanto è, vedremo se la cosa andrà o funzionerà. E se ci saranno risposte dalle opposizioni. Con cosa chiudere? Direi che c'è un po' di polemica in queste ore, ne trovate traccia su Repubblica con Michela Murgia e sulla Stampa con Caterina Soffici, su questo cartellone del Festival di Verona. Cos'è il Festival di Verona? È il Festival della Bellezza. Ma cosa succede? Che in cartellone gli ospiti sono tutti uomini, tutti, praticamente tutti. Ci sono Alessandro Baricco, Mogol, Edoardo Bennato, Massimo Recalcati, Morgan, Sgarbi, Federico Buffa, Flavio Tranquillo, Umberto Galimberti, Gioele Dix, Massimo Cacciari, Stefano Bollani, Alessio Boni, Gianni Morandi, Michele Serra, di tutto. Però praticamente, racconta Caterina Soffici, ci sono solo uomini. 22 eventi, tutti uomini, a parte una donna e mezzo. una. La donna 1 è l'attrice Jasmine Trinca, che è chiamata a testimoniare l'incantamento della sensibilità perché, cito testualmente dal programma, lo charme è un'arma a doppio taglio cui fa scudo la delicatezza. La differenza tra semplice bellezza e bellezza semplice sta in un sorriso. Quanto è casuale, una fortuna che indirizza l'intera vita. E poi, per quanto riguarda la mezza donna, spero si colga l'ironia, scrive Soffici, mezza solo perché nel computo degli spazi dedicati la giovane pianista Gloria Campaner dividerà fisicamente il palco con lo scrittore Alessandro Baricco. GR24, ci risentiamo tra un attimo con Paolo Mieli, se volete intervenire 800 24 00 24. Parleremo col segretario generale della UIL e parleremo anche di scuola, ovviamente, e poi avremo ospite un esponente del Partito Democratico per trattare di referendum, ma tra poco. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.